and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bambino Alberto, bentornato a Chiedo Asilo. Un saluto da Cappa e un saluto da Drago. Così, no? Torniamo domani. Ecco. Nanana. Uè, ragazzi, io continuo a essere in total sbatti, però. Total sbatti. No, perché i miei genitori continuano a rimandare l'annuncio. Ma dai, ma quale annuncio? Non so ancora quale annuncio. Appunto, quindi? No, forse è l'annuncio che sono malato di un morbo incurabile. Ma come parla? Il morbo incurabile. Morbo letale. Oppure l'annuncio che i miei divorziano. Ma sono due cose diverse quelle. Come fai a essere confuso su quello? È perché sono i segnali che sono diversi, sono contraddittori. I segnali. Allora, mi hanno fatto vedere tutti di fila, l'ultima neve di primavera, l'albero di Natale e il venditore di palloncini. Lo sappiamo. E qui, il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, no? Caro bambino Alberto, tu sei nostro figlio, sei malato e anche tu con una certa gravità e qui alla fine muori. Ma no, ma sono che solo cosa dei figli, dici? Infatti, dai. E poi c'è l'altro segnale, perché è qui sta il dubbio. Quello del divorzio di mio padre e da mia madre. Perché è il periodo che mio padre ascolta sempre una canzone, no? Una vecchia canzone, Piange il telefono, di Domenico Modugno. Sì, piange il telefono. Purtroppo ce la ricordiamo. Io all'inizio, cioè, non ci faccio caso, perché me quello che fa mio padre non è che mi interessa, no? Però dico, sente sempre questa, non avevo fatto caso al testo. E lì parlo di una separazione, perché si sente un papà che parla al telefono con la figlia. Che è nata dopo la separazione, quindi che non sarà che chi è il papà. Io mi ricordo che c'è la mamma in bagno, dice la mamma sta facendo la doccia, allora possiamo parlare, ma chi sei? Sembra una cosa un po' anche equivoca. Quindi lui l'ascolta perché? Perché si vuole, come dire, abituare all'idea? No. Allora è per mandare un messaggio anche a me, però. Ho capito. Perché prima lui ascoltava sempre solo le canzoni di Ivan Della Mea. Cioè, se si trippa per piangere al telefono, ci sarà un motivo, no? Scusa, ma Ivan Della Mea? Cantautore di sinistra. Comunque, qui te lo faccio sentire. Tra le due ipotesi, a questo punto è meglio che divorziano i miei, no? Perché l'alternativa è che io muoio. No, vabbè, infatti. Però magari sono i tuoi che muoiono, che hanno una brutta malattia. Ma cioè, è un incrocio di segnali che potrebbe essere vero. E ieri mi hanno fatto vedere per la seconda volta, incompreso. Incompreso. Incompreso l'abbiamo visto tutti, abbiamo avuto tutti lo stesso magone, quindi cioè, da un certo punto di vista siamo molto solidari con però te. Però non muore il bambino, no? Rimane paralizzato. Non lo quindi, so. Insomma, vabbè, allora è la festa. Almeno non muore. Ma c'è tutta una storia di incomprensione. Io mi ricordo che c'è, mi pare, un bambino che il padre però tratta un po' male, no? Sì, ma aspetta che te lo dico io. L'ho visto due volte. Allora, famiglia, quattro. Sì. Papà, mamma e due figli. Un figlio di 8 e un figlio di 4 anni. Il papà è un diplomatico, inglese, eh? Ah, inglese. Sì, che sta a Firenze, tipo un ambasciatore. No? E vivono in una villa, no? E a un certo punto la madre muore. Ma così? Così. Allora il padre, di botto, e ci rimane male. Beh, a quel punto dice, cosa faccio adesso con i miei figli? Ho due figli? E come glielo dico? Allora, prima cosa, assume una governante. Sì. Una governante austera, di quelle antiche, tipo tedesca, no? Svizzera, cattiva. E poi deve dire ai bambini che la mamma è morta. Vabbè. A quello di 8 decide di dirglielo. Ma lui è inglese, no? Glielo dice in inglese, no? Glielo dice in tedesco. Ma no. Ho visto che è italiano. È di Comencini. Al padre, al bambino piccolo, dice, la mamma non c'è, è partita per un viaggio. La solita tournée con Bob Dylan. Poi si rivede. E invece quello grande dice, senti un po', ti devo parlare, vedi che tua mamma mi ha detto che era partita. E non è mica vera. Era qui in casa, in una stanza, malata. Molto malata, E dice, il bambino annuisce e dice, lo so, ho capito. Vedi. Dico, ma come hai fatto? Ho sentito che lo zio ne parlava a bassa voce. E i bambini, siamo sempre qui. E il padre poi, il padre subito inizia a trattare il bambino in modo un po' da adulto, no? Come se, non lo so, e lo tratta un po' male. Invece, col piccolino, cioè, lì è proprio il cocco, no? Della famiglia. E quindi? Questo figlio, allora, turbato dall'incomprensione con suo padre, di incomprensione già cominciamo, comincia a isolarsi un po', no? Ecco. Fa un po' di cose del monello, sono tutte reazioni psicologiche, certo. E il padre lo tratta male sempre, invece il bambino piccolo può fare quello che vuole, no? Tu naturalmente ti immedesimi con quello grande. Ribelle. Con quello grande, no? Certo, anche se nella famiglia tu sei quello piccolo, ma non importa, riesci a fare questo transfer. Va bene, vai pure. Però c'è cioè, lo zio dei bambini, che è il fratello del padre. Che c'ha i porri in faccia? No. Quella è la sua biografia. Il suo teorema. Si accorge di questa disparità del trattamento, no? Allora dice, parla al suo fratello, dice, ma vedi che tratti male tuo figlio più grande, perché? Allora lui dice, cavoli, forse ho sbagliato. Allora dice, bambino, Bambino grande che prima ti trattavo male. Vieni a fare un viaggio con me. Bambino grande, così lo chiamo. Andiamo. È come lui. Che prima lo trattavo male. E lo chiama senza nome, proprio per mantenere la distanza, no? C'è. La freddezza, di, capito? Bambino grande. Certo. Bambino maggiore. Certo. Dice, andiamo a fare un viaggio io e te. Che? Andiamo a Roma e a Londra. Poi il bambino tutto contento. Non sta nella pelle, finalmente lui e il papà da soli, senza il bambino che rompe. Sì. Però prima di partire, fa una... Una Badamonello, no? Ne combina una. E cosa fa? E il padre lo pulisce. Ma sai perché? Cos'era successo? No. Allora, stavano i due bambini stavano lavando la macchina, no? Il bambino piccolo, che era cattivo, si è bagnato tutto con l'acqua, con la canna. E poi ha dato la colpa a quell'altro, no? E poi ha colpato il fratello maggiore. Vabbè, e lui, il padre... Incompreso. Il padre, esatto, creduto a quello piccolo, viaggio a Roma e Londra, e non lo facevo più. Ma come? No. Ma perché ha bagnato il fratellino più piccolo? Basta. Ma no. Allora, dopo quest'ennesima delusione, il bambino grande incompreso è salito su un albero, su un ramo che sporgeva su uno stagno, no? Sull'acqua. Attento, tu quando sei lì. Poi a un certo punto arriva il piccolino, che lo vede, nonostante il grande dicesse no, non salire, ha voluto salire sul ramo. È salito qui sul ramo e il ramo si è spezzato. Ma no! Sì, il bambino grande è caduto nell'acqua, mentre l'altro è rimasto su, è caduto, non si è fatto niente. Poi il padre ha saputo, è corso lì, tutto preoccupato per il figlio piccolo, vedi, arriva lì, il figlio piccolo sta bene, gli dice cosa è successo, senza dire che era stato lui. Il bambino grande si è fatto male, è rimasto paralizzato. Allora il padre, vabbè, si preoccupa, vanno in casa, lo portano su un divano, tutto pallido. E il bambino lì confessa al padre che gli mancava la mamma, no? Perché lui non l'aveva mai detto che si teneva tutto dentro, perché era incompreso. Allora il padre lì si commuove e il bambino sta facendo un tema sul rapporto del bambino col papà, no? E allora il padre prende il tema e glielo finisce, no? Gli finisce il tema, no? E parla del loro rapporto. Mentre lui è paralizzato sul divano. Lui è paralizzato sul divano. Non chiamano il medico, no? Ma gli finisce il tema. Vabbè, ma non sembra una cosa buona, giusta. E no, allora lui finisce il tema. E lui dice: uè, perché tu guardi e dici, beh, gli finisce anche il tema. Il papà e il bambino finalmente si sono pacificati. Sedia a rotelle, pazienza. Però uno vedeva lì e dice: ha rischiato di morire, invece è vivo. E no, dopo muore. È morto. Chiedo asilo. E ora, bambini, il sonnellino. Drago? Oh, disturbo, disse il premier a Gheddafi. Ma secondo te c'è qualche relazione tra la bufala della nipote di Mubarak o Mubarak e la caduta di Mubarak o Mubarak? Ma quale relazione? Dai, un caso, una coincidenza, no? Guarda che le coincidenze non esistono. Ma sì, certo che esistono, K. La nostra vita è fatta solo di coincidenze. Anche il fatto che io e te in questo momento siamo qui a fare il sonnellino all'asilo è una coincidenza. Ma come sarebbe? È che non ci fossimo conosciuti a Torino, la macchinetta del caffè, eccetera, eccetera, noi saremmo a fare qualcos'altro, E quindi secondo te non c'è un disegno dietro quelle che comunemente noi chiamiamo coincidenze? Sì, un disegno, queste cose new age, ma dai. Un disegno, un piano, ma no? Sì. Erano anni che non si sentiva parlare di Mubarak. O Mubarak. E poi di colpo, prima Ruby, poi la rivoluzione, che c'è un disegno dietro, ma raffinato. Scusa, anche. E se fosse solo una questione di portare sfiga? Cioè niente disegno, coincidenza. Beh, ma anche quello. In effetti tutti quelli che nomina il premier finiscono male. Certo. Mubarak. O Mubarak. Gheddafi. Sì, anche Ben Ali. Ti ricordi che era suo amico? L'unico è Putin. Putin. Sì, se l'unico davvero portasse sfiga, allora a quest'ora Putin sarebbe già stato cacciato dalla Russia. Dirlo che poi magari qualcuno ci sente dalla Russia, si monta la testa. Non disturbiamolo, Russia. Putin, guarda. Allineiamoci al nostro governo e non disturbiamo, che è sempre meglio, no? Profilo basso, non si disturba e via, ci si toglie dagli impicci. Sì, però se tu la anche guardi... Anche tu, dai, non disturbare, dai, voglio dormire. Vai, Drago, vai. Ok, adesso un assolo di 10 minuti. No, dai, ricordiamo che, ancora una volta, che presto Chiedo Asilo sarà live dal vivo nella sede di Radio 24 molto a Milano. Molto presto, molto live. Puntata extra large dalle 21 in avanti il 22 marzo, martedì sera. Speriamo che non ci sia la Champions League. Ma però frega, Chiedo Asilo live è molto meglio della Champions League. Quindi prenotatevi al nostro indirizzo email chiedoasilo@radio24.it. E oltre a noi due ci sarà anche Fabio Calabro nei panni della Abate Stoppani. Abate Stoppani! Torniamo domani! Chiedo asilo.